Avanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti, di Leonardo Manera e Daniele Ceva. Buon sabato pomeriggio a tutti. Allora, come sempre siamo qui con Avanzi di Manera, in cui diamo voce alle notizie di cui poco si parla sulle prime pagine dei giornali, quindi notizie strane, notizie interessanti, notizie desuete, insieme a Daniele Ceva. Buongiorno. Ecco, buongiorno Leonardo. Daniele Ceva, che oggi è molto carico, lo vedo più carico del solito. Come mai? Sì, era qui. Non lo so. Studio giocava, si metteva la spugna del microfono sul naso, si faceva dei selfie. Ma perché io rimango un bambino dentro, hai capito? Io con qualsiasi cosa cerco prima di tutto di giocare, poi sì, insomma, utilizzarlo per ciò che è stato fatto. Oggi comunque, noi vogliamo partire con una notizia che è contemporaneamente bella e brutta, che ricaviamo da un quotidiano che potete anche vedere voi. È un quotidiano che si trova online, si chiama blitzquotidiano.it. La cosa interessante di questo quotidiano qual è, Ceva? Ma io ricordo non Blitz, lo sa, io non mi lo ricordo sa. Blitz, quello che leggevo io quando insomma ero un po' più giovincello e c'erano le donnine nude. C'erano sopra. Le donnine nude, Albo Blitz si chiamava. C'era Albo Blitz, e poi vendevano anche un po' come l'Intrepido, vendevano queste cose tipo le scimmie di mare o gli occhiali per vedere attraverso, i vestiti a raggi X, esatto. Il bicchiere per ascoltare dall'altra parte della parete, esatto. Cosa si diceva? Che era un bicchiere di plastica, ma sì, lo pagavi 25.000 lire. E poi sa cosa c'era? C'era, sì, il profilattico che ti permetteva di allungare un po' le tue dimensioni. No, quello non l'ho mai visto. C'era nell'Intrepido, anche lo vendeva nella pagina Intrepido. In cosa consisteva? Era un profilattico normale che però all'apice aveva un piccolo una specie di tappo di sugo che ti permetteva di migliorare anche le tue dimensioni, diciamo così. Esatto, so che lei ha fatto, ne ha comperati, ma tantissimi, perché poi per ogni tipo c'era quel tipo, però ritardante per lui, stimolante per lei, eccetera. Io varie tipologie. Io solitamente metto dentro una pallina da ping pong ma anche quando non uso il profilattico, così proprio nella mutanda. Esatto per fare bella figura in piscina. Mandiamo alla notizia. È una notizia contemporaneamente bella e brutta. Perché è bella e brutta, Ceva? Perché da una parte è stata brutta per 30 anni per questo, diciamo, innocente che ha passato appunto 30 anni nel braccio della morte, questo Anthony Ray Hinton. Libero dopo 30 anni da innocente nel braccio della morte, e dopo a 57 anni, quindi dai 27 ai 57 è stato in carcere, dopo 30 anni è finalmente un uomo libero. Contro di lui ha giocato il colore della sua pelle, perché è afroamericano, e un sostituto procuratore accecato dai pregiudizi razziali che ha impedito al processo venissero presentate le prove che lo avrebbero scagionato. Bastava un semplice esame della pistola. Invece questo giudice accecato dall'odio razziale non ha neanche voluto esaminare la pistola, ma dopo 30 anni finalmente è stato riconosciuto libero, ma innocente, non libero, ma la vita è così, è stata, insomma, completamente rovinata. A proposito, una battuta di un nostro collega che è Giovanni Cacioppo, sì, che appunto descrivendo una situazione simile diceva: capitasse a me di passare 30 anni, io non mi farei dare dei soldi di risarcimento, ma un bonus per un omicidio. Quello del giudice esatto, immagino. Io 30 anni li ho già fatti, quindi adesso ho il bonus per un omicidio. Tra l'altro io voglio salutare, siccome mi è capitato tante volte di andare a trovare delle persone in carcere, a parlare con alcuni carcerati, devo dire è un po', secondo alcuni, un luogo comune, ma per me invece è anche la verità, e ho trovato in quei luoghi una umanità che altrove non si trova, perché tanti sono consapevoli di aver sbagliato, ma tanti si trovano a vivere una condizione veramente difficile e complicata. E allora io voglio salutare i detenuti che si trovano in questa condizione. Sono stato a San Vittore, a Bollate, a Lodi, in diverse carceri, e devo dire che li abbraccio veramente, perché ho trovato delle situazioni importanti dal punto di vista umano. Ceva, le piace questa nota così? Stavo lacrimando, stavo veramente scendendo lacrime. Tra l'altro, lo aspettano in queste carceri. C'è il luogo comune, si dice sempre, ma hanno anche la televisione, sì, ma il problema qual è? Che stanno in quattro in carceri, in celle che sono in 4 metri per 2, e se ti capita il compagno in cella sbagliato è veramente un inferno. E poi hanno anche la televisione, ma sono costretti a guardare porta a porta. Quindi è una pena aggiuntiva, diciamo. Non possono cambiare canale. Allora, diciamo un paio di battute appunto sui carcerati, eccetera. Panico al carcere del Lucciardone, dopo che 18 detenuti hanno chiesto al posto del solito rancio dei cestini da viaggio. Insomma, di Boris Macaresco. Salutiamo anche Boris Macaresco, grande comico. Battutista che ha fatto un po' la storia della comicità, insomma, in Italia. Legga lei questa, se riesce a leggere. È bella questa battuta. È stato incarcerato per un reato d'opinione. Lui era dell'opinione che emettere assegni a vuoto si potesse. La banca no. di Natalino Balasso. E salutiamo anche l'ottimo Natalino Balasso, che in questo periodo è in tour con il suo spettacolo, un one man show. Passiamo alla seconda notizia, che è questa: trucco al semaforo, senza una mano per l'elemosina, con due mani per contare i soldi. Questo è un classico, vediamo sempre tutti, tante persone, no, che chiedono l'elemosina al semaforo, ma questi rumeni, questo lo diciamo per alimentare l'odio razziale, giusto? Assolutamente. Cioè, per compiacere, insomma, quelli avanzi che... di maniera, un programma di odio razziale. No, questo lo diciamo perché c'è anche vicino a casa mia un semaforo dove c'è una persona che chiede l'elemosina. In questo caso, quando il bicchierino dell'elemosina era colmo, l'altro, questa persona che chiedeva, anzi erano in due, entrambi, chiedevano l'elemosina con una mano sola, poi quando il bicchierino era colmo tiravano fuori anche l'altra per contare i soldi. Questo lo diciamo per, appunto, alimentare l'odio razziale. E anche poi magari avevano, non so, avevano due mani destre. E quindi mancava una mano, ma ne avevano due destre. Questo è veramente incredibile. Sì. Va bene, Beniamino dirà questa, così, ma questa è la voce di mio figlio Beniamino. Ma la notizia sulla quale ci vogliamo concentrare un po' di più è questa, perché ci ha stupito, ci ha un plurale maiestatis, perché Ceva non sa nemmeno di cosa parliamo. Arriva qui, si alza tardi, beve un amaro appena alzato, come fanno gli alcolisti, un bianco sarti, e poi un amaro, viene qui senza sapere nulla e si poi così approfitta della situazione per provarci con delle donne qui alla radio. Allora, battute autobiografiche di maniera, però scaricate sugli altri. Quindi, dal Corriere.it di pochi giorni fa: rubò salsiccia al supermercato, dovrà pagare 11.000 euro. Cremona, 84 anni, malato di Alzheimer, condannato per furto di salsiccia con l'aggravante della destrezza perché l'ha occultata nei pantaloni. Poi faceva, insomma, lo dica, lo so che vuole arrivare, no, insomma, a quell'elemento pruriginoso. Certo, si vantava, andava in giro, ammiccava alle donne, diceva, ha visto che... La vicenda comincia il 23 giugno 2010. L'anziano entra in un supermercato della città e all'uscita viene fermato e trovato in possesso della refurtiva. Le guardie giurate, come è prassi, informano immediatamente la magistratura. Si mette così in moto il meccanismo giudiziario che nell'aprile 2013 porta al verdetto. L'uomo viene condannato per aver tratto profitto impossessandosi della salsiccia con l'aggravante della destrezza perché ha occultato la stessa dei pantaloni. Pena prevista 45 giorni di carcere, che vengono tramutati in una pena pecuniaria di 11.250 euro, più una multa accessoria di 45 euro. Non le sembra un po' troppo, Ceva? Sì, anche perché che profitto ha tratto nel rubare, oltre ovviamente alla salsiccia. Tutti noi abbiamo avuto la tentazione di rubare qualche cosa nella vita. Lei ha avuto la tentazione di rubare qualcosa, Ceva? Tantissimo. Nella vita. Che cosa? Io da bambino... Ma anche rubato qualche cosa. Ma certo, io da ragazzino al supermercato rubavo dei cioccolatini, delle qualsiasi cosa, bastava rubare. C'era quella una sorta di kleptomania. Tranne la cassa, perché sennò sei. Lei sa che, visto che abbiamo parlato di carcerati, io ho conosciuto proprio a San Vittore un signore che era entrato in carcere negli anni 50 per furto di mele. Poi ogni volta che andava in carcere conosceva dei malviventi più esperti e ogni volta che usciva faceva un reato più grave. E adesso, quando l'ho conosciuto io, era in carcere per omicidio su commissione. Cioè, pensi, quindi il carcere non serve a nulla se non a peggiorare. Assolutamente in no, casi. Beccaria, ha sbagliato tutto, dei delitti e delle pene, la funzione riabilitativa del carcere. Ma qui Esatto. Facciamo cultura, avanti di maniera. Legga un paio di battute sui ladri. Ho visto un ladro con una siringa rubare un'auto a iniezione. Questa è bella. I ladri poveri sono ladri. Facciamo finire la risata qui, registrata dal nostro coautore Marco Dal Conte. I ladri poveri sono ladri perché sono poveri, i ladri ricchi sono ricchi perché sono ladri. Ecco, questo è anche esatto. Certo, del grande Pino Caruso. Bene, noi abbiamo voluto, tramite qualche telefonata, sapere se anche voi è venuta la tentazione di rubare qualche cosa. Chissà perché, tra l'altro, quando si dice lei ha mai rubato qualcosa, quasi tutti dicono sì, da bambino, delle mele. Non si sa perché. Si vede che la mela è una cosa, tra l'altro, anche quello che è in carcere al Beccaria da 50 anni. E mi ha rubato dalle mele. Allora, vediamo cosa ci avete risposto. Pronto? Pronto, buongiorno, qui è Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. La conosce? Sì, però non l'ascolto mai. No, non importa, noi stiamo solo commentando una notizia di una persona che ha rubato una salsiccia al supermercato e dovrà pagare 11.000 euro di risarcimento. Stiamo facendo una piccola inchiesta per sapere se le persone hanno mai rubato qualche cosa. A lei è capitato? Sì, a lei è capitato di rubare qualche cosa? No, mai. Ma al supermercato? No, mai. Delle mele, una pizza, non ha pagato una pizza al ristorante? Può essere sincero, tanto non sappiamo il suo nome, può dire se... No, ma... Ma non ha mai avuto qualche tentazione, rubato qualche cosa? Anche quando ero piccolo ho preso una mela, ma voglio dire, ma niente di... Solo una mela. E poi tipo cosa un po' più grande, una moto, una macchina? No! Non ha mai rubato una macchina? Come no, non ho mai rubato una macchina. Ma tante persone rubano in giro. Senta, se lei, l'ultima domanda che le faccio, dovesse rubare qualcosa, che cosa ruberebbe? La cosa da cui è più tentato? Ma non saprei, guardi. Ha mai desiderato la donna ad altri? Vabbè, quello è un altro discorso. Quello non è rubare. Anche beh, insomma, è un rubare. Diceva, vabbè, se si generalizza, ovvio, tutto si può rubare. Certo. Ma no, ha mai avuto relazione con una donna già sposata, coniugata, già impegnata? No. Neanche questo, ma è un santo. No, non sono un santo, assolutamente. Grazie. La saluto. A lei, buona giornata. Allora, siamo sempre qui ad Avanzi di Manera e vogliamo ricordarvi di scriveterci qualche mail. Scrivete a Ceva, insomma, che vive in una località appena fuori Milano. Ha tanto bisogno di comunicare col mondo. E anch'io ho bisogno di comunicare col mondo, quindi scrivete a Daniele Ceva, scrivete a me, scrivete a Guido Scotti, a Pietro Lacorte, a Marco Del Conte. Ma dove scrivete? Scrivete ad Avanzi di Manera, @radio24.it. Perché possono scriverci? Perché eventualmente dovrebbero scriverci, caro Ceva? Ah, perché possono intanto segnalarci delle notizie, notiziole magari locali, notizie un po' abbandonate che nessuno a quel punto considererebbe, oppure per mandarci, noi facciamo delle telefonate, così mandarci dei numeri di telefono magari di amici che, non so, se qualcuno volesse che contattiamo un suo amico, o addirittura il proprio numero, così almeno contattiamo lui per le nostre telefonate molto divertenti, allegre e simpatiche. Mandateci foto, quello che volete, noi guardiamo tutto e poi vi restituiamo la nostra foto della fidanzata. Mandateci le foto delle fidanzate e anche dei fidanzati, insomma. Avanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti. Allora, caro Ceva, oggi è l'11 aprile, mancano solo 20 giorni all'inaugurazione dell'Expo di Milano. Expo? Ma Expo. E adesso Expo, poi quando sarà passato la Expo. Esatto. Che... Poi lei non si lamenti se nessuno ci scrive. Ma vedrà che dopo questa battuta ci scriveranno in modo sì, copioso. Delle proteste. Allora, mancano 20 giorni all'inaugurazione di Expo Milano, al polo fieristico di Ropero, e in quella zona di Milano c'è molta eccitazione e questa notizia Ceva ce lo conferma. Qual è la notizia? Quindi, sesso sotto l'albero, titolo, 2: si blocca il traffico, arriva la polizia, identificate e indagati per atti osceni in luogo pubblico, un 32enne italiano e una 24enne romena, qua alimentiamo di nuovo la xenofobia. Gli agenti si sono insospettiti per la coda di auto. Quindi l'eccitazione a cosa era dovuta? Questo atto sessuale? L'atto sessuale crea eccitazione. Beh, immagino che sia il risultato di un'eccitazione l'atto sessuale. Sì. In alcuni, la maggior parte dei casi è così. Hanno cominciato a fare l'amore sotto un albero seminudi e poco alla volta cosa è successo? Che tutti si sono fermati. Guardoni, voyeur, questo voyeurismo che ha fatto sì che si formasse una coda che ha insospettito un uomo. Guardate, con una notizia vera. È vero, c'è Beniamino, c'era questo uomo di 32 anni, italiano, e una donna di 24, romena. Stavano consumando un rapporto sessuale alla luce del sole, ben visibile a tutti i passanti. La donna era coperta solo da una piccola maglietta ed era voltata verso la strada, mentre l'uomo era in piedi, di spalle, si legge nel verbale della polizia. Quindi col disegnino. Si va con la constatazione amichevole. Esatto. No? Gli agenti li hanno interrotti e atteso che si rivestissero. Li hanno accompagnati al commissariato, indagati per atti osceni in luogo pubblico. Per la donna anche un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato. Che peccato, perché tutto questo? Perché era rumena. Poveri. Ma mi mette un po' più tristezza questa notizia che arriva dall'Argentina. Cos'è successo? Alberto, il pastore morto per aver fatto sesso con uno spaventapasseri truccato. Cioè, chi è che l'ha truccato? Grandissima amarezza qui, veramente. Chi è che ha truccato lo spaventapasseri? È andata così. Lui era da solo, sì. Probabilmente questo pastore non aveva nessuno con cui accoppiarsi. Allora ha preso uno spaventapasseri, lo ha truccato, gli ha dipinto le labbra, gli ha perfino aggiunto un sex toy a forma di organo sessuale maschile. Hai capito. A un certo punto era sparito, i vicini hanno chiamato la polizia e la polizia dice: quando siamo entrati pensavo ci fossero due corpi per terra, ma poi ho capito che uno era uno spaventapasseri con rossetto e capelli lunghi, era sdraiato accanto al defunto e indossava un pene finto. Pensi che amarezza. L'emblema anche della solitudine. Anche perché sarà un po' la fine che insomma rischia di fare lei in maniera con questo spaventapasseri. Con uno spaventapasseri con un pene finto, tra l'altro. Uno spaventapasseri vuole che ce l'abbia vero il pene, non lo so. Diceva Marcello Mastroianni: quando ti chiamano Latin Lover sei nei guai, le donne a letto si aspettano da te una performance da Oscar. Ormai ho raggiunto un'età in cui il cibo ha preso il posto del sesso nella mia vita, infatti ho fatto mettere uno specchio sul soffitto della cucina. Questo era Rodney Dangerfield, attore comico statunitense. Allora, cambiamo completamente argomento. Dopo il sesso si parla di... non so, di sigarette? No. Di droga. Ah, di droga. Sesso, di droga. Droga e rock and roll. No? Ah, è vero, lei vuole questo trittico. Lei conosce Orino di Varese? No, non lo conosco, allora. Non ho avuto mai il piacere di... Lei invece ha fatto delle serate. Io ho fatto una serata in un posto, non so se c'è ancora, si chiamava Villa Belvedere a Orino di Varese. So. Ricordo bene quella serata perché alla fine quattro persone hanno cercato di picchiarmi. Perché aveva... Non fatico a crederla, dopo ovviamente la serata. Dopo la serata, ma il problema era successo durante la serata. Questi quattro avevano bevuto molto, erano ubriachi, hanno cominciato a insultarmi dalla platea. Io, tra l'altro, è una pizzeria questo, un posto proprio una pizzeria. Io ho cominciato a mia volta a insultarmi. Una scena più triste di quella dello spaventapasseri. Loro mi hanno aspettato fuori per picchiarmi. Il proprietario se n'è accorto, mi ha portato poi fuori da un'uscita posteriore e mi ha portato via con la sua macchina. Vede cosa succede nella vita dei comici, degli artisti, soprattutto agli inizi. Ma a Orino cosa è successo? A Orino la Proloco invita le famiglie a celebrare le molte qualità della canapa indiana, cioè la cannabis. Si tratta di una varietà legale a basso tasso di principio THC attivo, però insomma hanno seminato coi bambini questa cannabis, perché diciamolo, sembra che la cannabis, del resto si sa, è risaputo, la marijuana, abbia delle proprietà positive, per esempio sul glaucoma o anche su altri problemi insomma di salute, quindi non va demonizzata a prescindere, lo possiamo dire questo. Assolutamente no, viene utilizzata molto ormai negli Stati Uniti e ormai insomma se le fanno la ricetta le può andare ad acquistare regolarmente la cannabis legalmente in alcuni negozi specializzati. Quindi lei che la utilizza anche senza avere problemi di salute e anche altri tipi. Però di... mi faccio fare la ricetta. Si fa fare la ricetta. Per i filtrini. E a Orino di Varese hanno fatto questa iniziativa che insomma può anche essere secondo me lodevole, perché ci permette anche di apprezzare delle doti al di là di quelle diciamo alle quali viene iniziano normalmente... un po' a crollare dei pregiudizi, diciamo. Esatto, diciamo, anche se poi vabbè, ognuno la può pensare come vuole. E per esempio diceva Robin Williams a proposito di droghe questa battuta: la cocaina è il modo che Dio usa per dirti che stai facendo troppi soldi. Oppure diceva Kate Richard, chi era Kate Richard? Chitarrista dei Rolling Stones. Diceva è ancora vivo. Io non ho mai avuto problemi con le droghe, ho avuto problemi con la polizia. Sì. È stato in galera Keith Richard per pochi giorni, forse uno o due giorni, ma era stato condannato a un anno. Poi però i Rolling Stones erano talmente amati in quel periodo lì dalla gente, dai fans, che insomma avrebbero creato dei problemi di ordine sociale, quindi li hanno liberati, lui e Mick Jagger. Ma guarda, questa nota di costume che lei ci... Ha capito, caro Manera, io non è che sono proprio... Noi invece abbiamo fatto una telefonata per sapere se siete favorevoli o contrari alla legalizzazione delle droghe leggere. Vediamo. Sì. Buongiorno, qui a Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. Stiamo commentando questa notizia, la notizia è la seguente. In provincia di Varese un comune ha piantato la cannabis legale, cioè la marijuana. No, io non voglio. Ma perché lei sa che la droga leggera è diversa, ha effetti diversi dalla droga pesante? Certo, ragione. Però no, sono contrario. Ma perché? Io la gente preferisco che bevano un bel bicchiere di vino bianco o di vino rosso e che siano tutti contenti. Sì, però c'è chi dice che il vino ha gli stessi effetti delle droghe leggere, più o meno. Perché lei... Insomma, il vino è più piacevole, diciamo. Però non sono... Forse perché non ho mai fumato. È una cosa molto bella e molto piacevole, ecco. Che cosa? Bere vino? Che cosa? Non ho capito, che cosa è piacevole? È piacevole che nessuno ha mai insistito che io potessi provare di fumare una sigaretta o di tirare una coca, di fare una pista, ecco. Ho capito. Ma, insomma, lei parla in modo anche abbastanza come se conoscesse queste cose. Ha visto persone che utilizzavano questi tipi? Io sì. Quindi che droghe ha visto usare? E mi fa lanciavano piste sulle pance di alcune belle ragazze. Io le parlo di 40 anni fa, giovanotto, ville speciali, Ah, ville speciali, in queste case private, case private, con persone speciali, persone giuste che avevano della testa. Erano feste favolose, Però lei mi dice che è contraria, ma erano feste favolose, capisce che sì, c'è. Sì, ma è una cosa sua, è questo che voglio dire. E cosa succedeva dopo? Come mai, tra l'altro, sulle pance di queste ragazze? Perché erano feste di una volta si organizzavano queste feste qui. Insomma, adesso diciamo la verità, 40 anni fa si usava a fare delle belle feste, delle orge, diciamo. Quindi il bunga bunga di Berlusconi è già una cosa superata. Berlusconi l'ha fatto adesso, ma io lo facevo 40 anni fa queste cose qui. Berlusconi è rimasto indietro. E cosa succedeva quindi in queste feste? Ce le descriva rapidamente. Ma rapidamente li dico, uomini e donne tutto un misto, e poi c'erano, insomma, adesso si appartavano, c'è chi era tranquillo che fumava la sigaretta o che beveva qualcosa, oppure queste donne qui seminude mettevano la droga, sì, insomma, sulla pancia, e poi sniffavano, vi dico questa, sniffavano con biglietti da 50, 100 mila lire di una volta. Ho capito, signora, mi sembra che lei rimpianga un po' queste feste a base di droga. Il divertimento era diverso. Ma mi scusi se sono un po' indiscreto, signora, ma lei non ha mai avuto qualcosa sulla pancia da... No, io mai. Quindi lei andava e osservava. Osservava che mi piaceva, partecipavo alla compagnia. Quindi diciamo che con le droghe si può guardare, ma non... Sì, non c'è bisogno di sniffare. Prendi una bella bottiglia di vino, te la godi, stai lì con una bella ragazza, te la scopazzi un po' e poi stai da Dio. Ma signora, la bottiglia di vino intera, insomma, non è poco, fa anche quella non benissimo, diciamo, almeno un bicchiere di vino. È una bella bottiglia, quando sono in compagnia, così è piacevole, bella, figo, altro che, se uno va in tea, va in tea. Buona giornata, grazie. Anche a te, ciao caro, ciao. Anche oggi siamo praticamente in dirittura d'arrivo, ma prima non possiamo evitare, a malincuore devo dirlo, dobbiamo fare la rubrica di Daniele Ceva, e sono consigli per nuovi palinsesti televisivi. Insomma, Daniele Ceva dà delle idee per nuovi programmi. Per esempio, il programma che lei propone oggi è... Manera, questo è il programma che cambierà la storia della televisione mondiale. Oh, credo. Finalmente una buona idea, vediamo in cosa consiste. È un reality scientifico fatto con gli animali e per la precisione con dei pavoni. Si intitolerà Pavoni senza coda. Lei sa benissimo come fa lei, insomma, quando si dice pavoneggiarsi, proprio perché il pavone utilizza questa ruota. Fa con la coda per insomma, per accoppiarsi con le pavoncelle, per attirarle a sé. Mi viene un dubbio adesso, prima che lei descriva, ma prima che l'uomo inventasse la ruota, come si chiamava la ruota del pavone? Secondo me è stata inventata da un pavone la ruota a questo punto. Quindi in cosa consiste il programma? Quindi si prendono 10 pavoni, gli viene tolta la coda, una pavoncella davanti a tutti loro e si vede se sviluppano altri modi di approccio, di corteggiamento nei confronti appunto di questa pavoncella. I primi esperimenti hanno dato dei risultati strabilianti, per esempio un pavone è arrivato a fare l'occhiolino alla pavoncella. E quindi questo potrete vedere e altri metodi di corteggiamento dei pavoni in Pavoni senza coda, l'ultima discutibile idea di Daniele Ceva. Noi con questo vi salutiamo, grazie Daniele Ceva, a Guido Scotti, curatore, Pietro Lacorte, in regia Marco Del Conte, il nostro coautore, e naturalmente a Claudio, a Leonardo Manera. Buon sabato del villaggio, ciao!